tedesca, ma sicuramente anche italiana, soprattutto incentrata su questi problemi della rappresentazione degli interessi nelle istituzioni più tradizionali, che sono evidentemente i partiti sindacati, ma che invece, ma anche nelle istituzioni meno tradizionali che vanno definite. Quindi queste tre relazioni sono estremamente importanti e ringrazio quelli che le fanno, e d'altra parte però chiedo a quelli che ascoltano di aver pazienza se di Germania si parlerà progressivamente meno, perché questo è un po' nella logica del nostro discorso. Come gruppo noi poi, questa volta in modo molto più informale di questa volta, di oggi e di ieri, ci ritroveremo sicuramente prima dell'estate, probabilmente verso giugno, per appunto concordare i nuovi programmi, le nuove cose, eccetera, eccetera, e quindi tutto è ok. Adesso Raffaella Gherardi, professore di storia delle dottrine a Bologna, il modello Germania nelle scienze politiche e sociali dell'Italia liberale. Sì, quando ho scelto questo titolo sono stata volutamente molto banale per cercare di tirare fuori alcuni problemi che noi come gruppo avevamo progressivamente affrontato nel corso della nostra ricerca. Nel senso che 2 anni fa, quando siamo partiti, tutti eravamo così entusiasti di questo modello Germania che a primo avviso si trova in tutte le scienze politico-sociali in Italia, perché effettivamente la recessione della cultura tedesca è grossissima. Poi progressivamente a un certo punto ci siamo interrogati se effettivamente ci fosse, e sembrava che proprio non ci fosse un modello Germania, nel senso che la cultura italiana vuol dire tutta un'altra cosa che non quello che contemporaneamente vuol dire quella tedesca, e allora è tentativo semplicemente di vedere sotto questa etichetta che cosa si può intendere per le scienze politico-sociali, o perlomeno per alcuni percorsi delle scienze politico-sociali dell'Italia liberale. Dico subito che per quel che riguarda l'Italia liberale mi interessa far riferimento particolarmente all'età della sinistra. All'età della sinistra, e accenno in breve ad alcuni problemi di storia costituzionale particolarmente importanti in quest'età, nell'Italia di quest'età. Naturalmente, riassumo così molto in fretta il fatto che l'età della sinistra è l'età del trasformismo, con tutto quello che significa questo, constato semplicemente che in Italia in quest'età si ha la formazione di un sistema politico tipicamente italiano, e qui richiamo sommariamente quello già detto da Fanetti e da centinaia di altri, cioè sulla inesistenza in Italia di partiti politici in senso moderno, eccetera. Così come in quest'età si ha il passaggio per quel che riguarda il problema della politica economica, dall'età del liberismo all'età del protezionismo, e dal 63, che erano i trattati liberisti con la Francia, alle tariffe del 78 e progressivamente dell'87, quello per quel che riguarda la politica economica. Vi richiamo questi dati perché poi alla fine ritorneranno come matrici molto importanti per il discorso che si fa invece a livello, tra virgolette, sovrastrutturale. Però richiamerei anche il fatto che questo passaggio della politica economica, da molta parte della letteratura, viene visto come un passaggio dalla politica economica liberista a quella protezionista, come un passaggio grave di oscillazioni, di ritorni, di ritardi, eccetera, no? Già Romano Prodi, in un antico articolo, che però credo che sia molto significativo, credo fosse il 66, insisteva sul fatto che la politica protezionista in Italia è molto più che un piano organizzato dall'alto, è frutto di compromessi di volta in volta diversi dello Stato con le forze sociali in campo successivamente. No? Questo è molto importante, questo dato della politica economica come qualcosa di compromesso protezionista, che ha alla base compromessi sempre diversi, con quei compromessi che sono alla base del resto anche delle diverse tappe della politica amministrativa italiana, perché se è vero che le leggi del 65 sono fortemente orientate all'accentramento, eccetera, è altrettanto vero che la revisione di queste nella nuova legge comunale provinciale dell'88-89 è soltanto parzialmente orientata a una progressiva liberalizzazione, perché il carattere dell'accentramento rimane ancora il dato di fondo. Insomma, mi interessa questa età della sinistra come particolarmente significativa per l'Italia, del passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse, proprio per questa serie di compromessi interni estremamente variegati che si attuano successivamente a partire dalle diverse politiche. Questa età per l'Italia, l'età della sinistra, è anche contraddistinta a livello culturale da quello che ormai la letteratura degli ultimi anni designa sotto il nome del passaggio dall'età della Costituzione all'età dell'amministrazione. Un passaggio che non si verifica soltanto a livello di teoria politica nelle varie discipline, ma ha anche delle conseguenze di strategia politica molto diverse. Basta pensare che Francesco De Sanctis, che è esponente della nuova sinistra, alla vigilia delle elezioni del 74, e tutti sanno che quanto fossero importanti queste elezioni, deve difendersi dagli avversari, dall'accusa di condurre una politica essenzialmente amministrativa, e dice questo: la politica, come tutte le scienze, cambia di contenuto secondo i tempi e il progresso. Altra era la politica del secolo passato e di parte del nostro, altra è la politica come intesa oggi. Nel secolo passato la politica aveva contenuto quello che oggi diciamo statuto, le questioni di forme di governo, di meccanismo costituzionale, di diversi congegni, di tutto quel sistema di guarentigie nelle quali faceva consistere la libertà, combattendo soprattutto la nobiltà e il clero, i due puntelli allora del governo assoluto. Tale era, ed in questo senso è rimasta oggi, solo in un paese vicino, che crede la politica intesa come meccanismo costituzionale sia la panacea universale per tutti i mali, e quando sente disagio cerca medicina nella politica e ha mutato già 10-12 volte la sua costituzione. Il meccanismo cambia, il disagio resta, perché il meccanismo non può guarire lo spirito che c'è dentro, e se questo spirito è guasto non c'è meccanismo che valga. E quando si è capito questo, si è veduto che la vera e grande politica è rivolgersi a migliorare lo spirito nazionale. Quindi la materia della politica è cambiata oggi e abbraccia tutto il complesso di interessi economici, morali, intellettuali di un paese. Come l'economia politica è sparita ed è divenuta l'economia sociale, la politica è divenuta uno dei principali rami della scienza sociale ed è scienza sociale anch'essa. Scusa, chi era? Questo era De Sanctis in un discorso che fa in un'associazione costituzionale, nell'associazione a difesa del fatto di condurre, cioè a giustificazione del fatto di condurre una politica basata sull'amministrazione più che su obiettivi di stampo costituzionale. Ricordo anche, ma naturalmente gli esempi in questo senso potrebbero essere moltiplicati, un brevissimo brano di Mosca delle Costituzioni Moderne, questa operetta dell'87, in cui Mosca dice: quella scienza che in Italia dice sì diritto costituzionale non basterà mai a sciogliere il problema politico, che si risolve e si completa nel sociale e nell'amministrativo senza la cooperazione di quelle altre scienze che si dicono economia politica, scienza delle finanze, diritto amministrativo, scienza dell'amministrazione. Su questo terreno delle scienze politico-sociali che si vanno affermando in Italia in quell'epoca, le cosiddette due anime del liberalismo italiano, l'anima settentrionale e l'anima meridionale, la prima molto più incline, si dice, a valutare i momenti della società civile, la seconda molto più ponente l'accento sul momento dello Stato, sono invece, a mio avviso, molto più vicini di quanto non sembri a prima vista, nella misura in cui entrambe sono concordi nel sottolineare il ruolo neutralizzatore che queste scienze, e in particolare le scienze relative all'amministrazione, svolgono a livello del problema politico, come lo chiama Mosca, no? E qui, non so, basti pensare alle figure di Spaventa, emblematico dell'anima meridionale, e Minghetti di quella settentrionale, basta paragonare alcuni discorsi di Spaventa e l'opera di Minghetti, Partiti politici, i toni sono veramente molto molto simili, e simili sono le fonti anche a cui fanno riferimento. Fra virgolette, gli esempi e gli studi della Germania sono più volte indicati nel corso dei Partiti politici, ma anche delle opere minori di Minghetti, come esempio da seguire. Insomma, intendendo per questo il rivolgersi costantemente in maniera sempre più accentuata a problemi singoli, specifici, più che a un'idea relativi all'amministrazione, più che al politico in senso lato. Spaventa poi, non so, arriva a livelli, cioè dico, parlando della riforma universitaria in Parlamento, spaventa dell'autonomia o meno che si deve dare all'università, spaventa, cita von Stein, per dare l'idea della cultura diffusa, no? Cita von Stein, e un altro gli dice, egregio professore tedesco, e un altro gli dice no, è austriaco, non è tedesco, e dice tutto un battibecco in Parlamento su questo, per dire che in fondo... Cioè, il richiamo a von Stein era molto comune nella cultura politica, ma nella pratica politica attiva, concreta di ogni giorno, dell'Italia liberale. D'altra parte, questo famoso modello Germania, cioè il fatto stesso di far ricorso a questo modello Germania, è molto esplicito da parte di questa letteratura, non solo nelle opere maggiori, ma anche nelle opere minori. Insomma, penso Minghetti fa un elogio, legge un elogio all'università di un personaggio, oggi sconosciuto, e prende le mosse, come prende le mosse in molte delle sue opere maggiori, dalla controversia Tibosa-Avini, per dire, del metodo storico e il metodo invece razionale, questa controversia nata sul terreno giuridico, poi trasferita a altre scienze. E sempre partono da questa cosa, così come naturalmente nelle iniziative di cui parlerò successivamente, cioè sia a livello di biblioteca dell'economista, ma anche della biblioteca delle scienze politico-sociali, nelle introduzioni di vari volumi sempre si richiama questa cosa. Per cui se si tiene presente questo costante richiamo della cultura politica italiana, liberale italiana, agli esempi di studi della Germania, effettivamente l'influsso della cultura tedesca c'è, e c'è su larga scala, dal punto di vista così semplicemente di recezione di questi stimoli, no? E naturalmente lo dimostra, una riprova di questo sono le innumerevoli traduzioni che vengono fatte di opere tedesche in questi anni, da von Gneister, Blumschel, von Stein, eccetera. Però io vorrei richiamarmi, dopo è chiaro che secondo me il discorso che faccio per l'economia, in particolare sul socialismo della cosiddetto socialismo della cattedra italiano, si può fare anche per altre scienze. Comunque proprio come emblematico vorrei seguire il percorso così eterodosso, eterogeneo del cosiddetto, fra virgolette, socialismo della cattedra italiana, per cercare di chiarire quelli che secondo me, anche se in maniera provocatoria, li metto lì perché proprio voglio suscitare un dibattito, soprattutto nei tecnici di questo problema, Scassieri o Cardini, eccetera, per vedere appunto di cogliere le caratteristiche del liberalismo italiano di fronte ad altri tipi di approccio. La tesi più nuova, anche credo più convincente, finora avanzata dalla storiografia nei confronti del liberalismo, di questo cosiddetto sistema liberale di riforma sociale italiano o liberalismo sociale, è quella di Zellin, poi fatta proprio anche da Cervelli, in cui si dice, e naturalmente anche Ara ha sottolineato alcuni aspetti di questa tesi, nel senso che si dice il socialismo della cattedra in Italia, il cosiddetto socialismo della cattedra, è qualcosa di molto diverso rispetto al suo progenitore tedesco, in realtà ha molto poco a che spartire col socialismo della cattedra tedesco, il liberalismo sociale italiano non è una dottrina, si sottolinea questo, e Zellin dice no, non si può definire una dottrina perché manca di un carattere di sistematicità, è molto più approcci, fatto di un sistema di approcci empirici e concreti al problema della legislazione sociale, eccetera, quindi manca una teoria che stia alle spalle di queste singole iniziative portate avanti dai singoli esponenti di questo movimento. Si dice il liberalismo italiano, questo liberalismo sociale, è molto intriso di toni filantropici, accentua molto il momento etico e il momento anche educativo, quindi è moralista, E quindi anche quando sostiene l'intervento dello Stato nell'economia lo fa solo sul piano empirico, in realtà non mette in discussione quelli che erano i canoni classici, economia politica, i canoni fondamentali dell'economia politica classica, e quindi si dice è molto più un adattamento del liberalismo alla questione sociale senza intaccarne credo liberista di fondo che una revisione vera e propria. Quindi a mio avviso, cioè questi italiani, cioè, c'è in nuce un senso di inferiorità di questi italiani che non avrebbero ben capito in cosa diavolo veramente consisteva il socialismo della cattedra, avrebbero sì rimasticata alla bella e meglio questi insegnamenti che venivano d'altr'altro, però senza capirne in fondo tutta la portata. Io credo che fin dalle origini, quando nasce questa polemica fra gli esponenti della scuola classica dell'economia, fra i liberisti, e qui uso liberista in maniera grezza, no? Poi so benissimo che Scassieri poi ci dice che a livello di teoria Ferrara viene considerato come un precursore del marginalismo, ma io lo uso proprio come lo usavano i polemisti di quegli anni, quando parlavano di Ferrara lo intendevano come il campione dell'economia politica classica, insomma, senza poi differenziare le sue concrete posizioni. E dico che quando inizia questa polemica, cioè proprio in perfetta sintonia con gli anni della sinistra al governo, perché la polemica inizia alla fine del 74 e all'inizio del 75 con il famoso articolo di Ferrara sul germanismo economico in Italia e la risposta di Lussatti su Altra Sponda, dico che quando inizia questa polemica lo stesso Ferrara, che è pure il più strenuo oppositore del cosiddetto germanismo economico, colui che inventa l'espressione germanismo economico, è tuttavia, e che si scaglia in modo violento contro il germanismo economico italiano per la sua impronta statalistica, pure lo stesso Ferrara è estremamente conscio del deviazionismo degli italiani nei confronti dei tedeschi, e dice, quando parla nella sua rivista L'Economista di Firenze del congresso di Milano di questi dissidenti, dei Lombardo-Veneti, cioè di coloro che rappresentavano i cosiddetti socialisti della cattedra in Italia, dice, ammettere l'esistenza, Ferrara, ammettere l'esistenza di leggi prime fondamentali, senza manco soggiungere che debbano essere storiche, e lo sottolinea Ferrara, storiche, cioè mutabili a volontà, e dal tempo medesimo serbare un prudente silenzio sul delicato argomento della proprietà che il socialismo cattedratico professa di voler rimpastare a suo capriccio, è già una sensibile deviazione dal germanismo che forse difficilmente gli Scheel e Wagner sapranno perdonare ai loro amici d'Italia, ma della quale l'Italia deve essere a questi riconoscente. Io credo che questa cosa di Ferrara sia molto importante, no? Ed è molto importante anche dal punto di vista stesso dei socialisti della cattedra di casa nostra, quando questi tengono ben sempre, vogliono sempre prendere le distanze dai socialisti della cattedra tedeschi, proclamando il fatto che la loro metodologia è una, virgolette, via media fra gli insegnamenti dell'economia politica classica e quelli della scuola storica dell'economia, una via media che rivendicano l'italianità di questo loro modo di procedere, richiamandosi direttamente allo sperimentalismo galileiano. Cioè, i socialisti della cattedra italiani pongono una netta distinzione, tengono a porre una netta distinzione fra quella che essi definiscono scienza e quella che essi definiscono arte. L'economia è una scienza e come tale ha delle sue leggi primarie che nessun richiamo alla storia potrà in qualche misura intaccare. È chiaro però che, come ogni scienza, essa dovrà venire a patti con quelle che sono delle condizioni che si differenziano a seconda dei tempi in cui ci si ritrova a vivere, no? E fanno abbondanti esempi, per dire, si richiama, la matematica è una scienza pura, però quando l'agrimensore fa dei rilevamenti, allora quello avrà degli obiettivi concreti e deve piegare le leggi della matematica a quelli che sono dei suoi obiettivi contingenti. E gli esempi che fanno in questo senso sono moltissimi. E direi che a quelli, ciò che interessa ai socialisti della cattedra italiani è una scienza che è sì pronta a confrontarsi con la storia e quindi con tutti i problemi che questa può porre sul tappeto, che però con questa scienza conserva un suo nucleo originario puro, sottolineo anche per questi, che è capace di battere questa scienza, proprio per il fatto di essere pura, è capace di battere il politico di stampo francese, abbiamo visto l'accenno fortemente polemico di De Sanctis, ma è costante, no? contro il modello che la Francia rappresenta, il modello della politica della Francia, no? Consente di battere il politico di stampo francese e di contrapporsi con successo alle utopie sovvertitrici dei socialisti. Per fare questo discorso credo che sia molto interessante andare a seguire il percorso di quella che è una delle iniziative editoriali più importanti dell'Italia liberale, che è la Biblioteca degli Economisti. La Biblioteca degli Economisti è fino al 75 diretta da Ferrara, il quale traduce fondamentalmente dei grandi trattati di economia politica, no? Poi dal 75 in poi viene diretto invece da Boccardo, Beneducci ha già più o meno accennato a questo personaggio, che è effettivamente molto importante, perché è molto importante perché è un eclettico, e di solito Boccardo viene bollato, è un eclettico, non capisce niente, ma a me interessa molto per il fatto che non, cioè che proprio essendo un eclettico è molto aperto a cercare di capire invece in che cosa, cioè, dov'è che bisogna andare a parare, insomma, che cosa c'è sotto questo eclettismo. Ecco, Boccardo dirige la Biblioteca dell'Economista dal 75 fino agli anni 90. E in effetti cambia anche di titolo la Biblioteca degli Economisti, perché ha come sottotitolo dopo, mentre prima si chiamava Trattati Complessivi o Trattati Speciali, ha raccolta delle più pregiate opere italiane o straniere di economia politica. Lo stesso sottotitolo che porta poi la Biblioteca Brunialtiana. Infatti Brunialti, quando scrive l'introduzione generale, fa specifico accenno alla Biblioteca degli Economisti, dicendo che la Biblioteca degli Economisti aveva avuto un grandissimo successo, non a caso, perché è un tentativo molto intelligente di far confrontare la cultura italiana con messaggi che potevano venire dall'esterno. Lo stesso percorso che aveva fatto la Biblioteca degli Economisti doveva essere compiuto sul terreno delle scienze politiche e sociali da quest'altra impresa editoriale che Brunialti introduce. Allora mi interessa vedere, proprio attraverso il cosiddetto eclettismo di questa terza serie della Biblioteca dell'Economista, quale tipo di modello Germania viene fuori. Cioè, che cosa strumentalmente si fa dire alla Germania e per quali fini? Io credo che si faccia dire alla Germania. Cioè, è pure semplice recessione geografica della cultura tedesca, o invece è tentativo di costruire una risposta alternativa a quella che veniva da Oltre Alpe? Anche qui, se andiamo a vedere le cose che vengono tradotte, effettivamente la cultura tedesca viene recepita in modo massiccio, gli Scheffler, i Wagner, e soprattutto dal decimo al quindicesimo volume è il manuale famoso di economia politica di Schoenberg, in cui entrano Brentano, Schmoll e 50.000 altri tedeschi, no? Per cui recessione massiccia. Però accanto a questi gli Spencer, Leroy Beaulieu, quindi richiami ad altri filoni della cultura europea. Ecco, e allora ancora una volta, è questa semplice giusta posizione eclettica con scarso spirito critico, come dice la letteratura attuale, oppure invece il tentativo di tessere qualcos'altro? Una cosa, cioè io ho letto le prefazioni che Boccardo fa a quest'opera, e una cosa che mi ha stupito molto è che in ogni prefazione, direi proprio in tutto, perlomeno nella stragrande maggioranza, che lui fa alle singole opere, si tratti di Spencer, o si tratti di Leroy Beaulieu, o si tratti dei cosiddetti critici dell'economia politica, che sono Marx, Lassalle e tutti gli altri, perché anche questi vengono tradotti, o Proudhon. Il discorso che lui tiene a sottolineare moltissimo è il problema dell'applicazione delle leggi matematiche nell'economia e della validità fondamentale e della novità costituita da questo tipo di metodologia. E il richiamo costante che lui fa a Valras e a Jevons. Per Boccardo questa è la via da seguire, l'applicazione della matematica all'economia. Questa è la prospettiva che anche le altre scienze devono seguire. In un tentativo, e naturalmente poi c'è tutto il dibattito se anche nelle scienze sociali sia possibile questo stato dell'applicazione dei cosiddetti metodi quantitativi, lui li chiama, ad altre scienze sociali, e lui risponde di sì, anzi, una scienza raggiunge il suo stadio di scienza quando passa dal qualitativo al quantitativo e quindi quando applica in maniera sempre più sofisticata strumenti matematici. E ribadisce ancora una volta che questo è molto importante proprio per quella differenziazione di fondo che il liberalismo sociale o socialismo della cattedra, oppure non c'è un'etichetta migliore per contrassegnare questo fenomeno in Italia, cioè per la differenza che, questi sottolineano sempre fra la scienza e l'arte. Nell'introduzione generale alla terza serie Boccardo dice: carattere generale costitutivo della scienza è il disinteressamento completo da qualsiasi conseguenza vantaggiosa o nociva del proprio operato. Ella si accinge all'indagazione della pura verità, senza preoccupazione alcuna dell'uso che della verità trovata potrà farsi da esso o da altri. Poi, prima di pigliar cura di provvedere al popolo un'abbondante rendita ed una rendita sufficiente allo Stato, indaga l'economista e dimostra molte verità puramente scientifiche, siccome quando afferma che il valore tende all'aumento allorché cresce la domanda o diminuisce l'offerta e tende al ribasso nei due casi opposti, eccetera, o quando dichiara che la rendita nasce dall'eccedenza del lucro sul costo di produzione. Poi ancora, la scienza non dà regole, non porge precetti, lasciando all'arte questa cura. Essa fa osservazioni ed esperienze, indaga leggi, espone principi e teoremi. E poi, per quel che riguarda i metodi quantitativi, lo avere esplicitamente preso a trattare l'economia come una scienza, applicando ad essi metodi severi e fecondi che fecero compiere giganteschi progressi alle altre scienze propriamente detti, è gloria dei più celebri economisti contemporanei, dei quali noi pubblichiamo in questa serie le opere. E qui, qui citava Varrà e Jevons, ma sottolineo che poneva anche Boccardo, non pone soluzione di continuità fra la sua biblioteca dell'economista e quella ferrariana. Lui dice che continua l'opera di Ferrara, in questo senso, nel senso di richiamo a quelli a tentare di purificare sempre di più l'economia politica. E poi quando dice ancora che la scienza, l'economia politica è sì scienza induttiva, ma anche ricorre al metodo deduttivo, no? Ancora. Dunque, in ogni caso, Boccardo polemizza, oltre a questo impositivo, questa esaltazione dell'applicazione dei metodi quantitativi all'economia politica, c'è in negativo la polemica contro qualsiasi approccio totalizzante alle materie trattate e anche all'economia politica. E qui la differenziazione col modello Germania, perché la fortissima critica ai socialisti della cattedra propriamente detti e a qualsiasi approccio non tendente a porre netti confini disciplinari, cioè prima di tutto non distinguere bene scienza e arte, questo è il primo passaggio, scienza e applicazione di essa, e dall'altra parte all'interno delle scienze non porre confini disciplinari ben definiti fra le scienze. Anche in quella famosa prefazione che lui fa a Spencer, dove si dice che Boccardo sia un po' scemo, perché scrive una prefazione che si chiama «La sociologia come scienza nelle scienze sociali, nelle scienze naturali, nella religione e nel cosmo», quindi sembra una cosa proprio del tutto folle, no? In realtà lui, pur esaltando i meriti della sociologia e l'importanza di questa scienza, polemizza, adesso non ricordo se sia in questa ma o in un'altra, che si chiama proprio del metodo dei limiti dell'economia politica, proprio contro l'approccio molto spesso troppo onnicomprensivo della sociologia. Così come spiega egli stesso che è l'esperienza storica della Germania che spiega un fenomeno come socialismo della cattedra. Perché dice il socialismo della cattedra dà un ruolo molto importante allo Stato. Ma perché? Perché l'esperienza costituzionale tedesca va in questo senso, cioè l'unità della Germania poteva solo avvenire con un forte momento accentratore con una carica statuale molto forte e con anche l'eredità filosofica tedesca, cioè dice in Germania ci sono gli Hegel, questa gente, no? E quindi questa filosofia onnicomprensiva, totalizzante. Su queste basi si capisce il socialismo della cattedra. Al di fuori non si capirebbe, qui noi abbiamo altre esperienze, quindi non ha senso andare a rivangare questa cosa. E poi anche dice naturalmente la Germania deve condurre una lotta molto forte contro il socialismo, no? Che oggi è molto vitale là, per quello c'è bisogno di un forte movimento statuale. Per questo il socialismo della cattedra può avere ancora, cioè ha una spiegazione perlomeno su quel terreno. Infatti a proposito di quello che dicevo sulla necessità di separare l'economia politica, la scienza pure, le scienze applicate, così come l'economia politica e la scienza fine, separare accuratamente, questo si chiama del metodo dei limiti nell'economia politica, la prefazione al quarto volume, separare accuratamente il campo dell'economia politica da quelle della scienza fini. Fin dai tempi di Pellegrino Rossi, gli economisti ammettevano che i grandi problemi sociali non si risolvono coi soli dettami della scienza economica, ma domandano il concorso di tutte le altre discipline, morali e civili. Vi è una scienza di Stato, vi è una scienza amministrativa, vi è una politica propriamente detta, vi è una statistica, discipline tutte alle quali si appartiene autorità di intervenire nella soluzione di quei complessi problemi. Quando di fronte al Parlamento sorge un problema, per esempio previdenza, lavoro dei fanciulli, eccetera, spetta al giurista, all'amministratore, al moralista, al politico, all'uomo di Stato il dire la sua parola, ma è pure a nostro avviso un grande errore dei neoeconomisti quello di credere che questa parola costituisca un nuovo verbo nella scienza economica. I neoeconomisti sono coloro che sono troppo entusiasti del socialismo della cattedra tedesco. La scienza economica resta assolutamente e dominamente quale era, e i suoi teoremi, eterni come quelli di tutte le scienze veramente tali, non subiscono la minima restrizione solo perché per trovare la diagonale risultante si è dovuto istituire il parallelogramma delle forze componenti, derivate dalle scienze economiche e da altre 5 o 6 diverse discipline. Per quel che riguarda poi la sociologia, che è molto bella questa cosa, sempre nella stessa prefazione, dice «Sotto la denominazione di scienza sociale, o più recentemente sotto quella di sociologia, uomini eruditissimi hanno ideato una disciplina nella quale tutti quanti i fenomeni presenti nell'umana società, e quindi fenomeni politici, giuridici, religiosi, economici, commerciali, pedagogici, artistici, dovrebbero essere compresi come in una vasta sintesi, per modo che nessuna di quelle svariate categorie di fenomeni dovrebbe mai considerarsi se non in una costante connessione con tutte le altre». Poi ancora, ma se è così alto il concetto in cui teniamo, questo lo dice dopo aver esaltato i meriti di Comte e Spence, il merito di questi maestri, non possiamo pur tuttavia accettare pienamente il modo col quale si considerano la scienza sociale. Anche le scienze fisiche e naturali furono un giorno conglutinate in vasta e indigesta unità, ma fu progresso da questa congerie originaria, man mano si separarono, acquistando proprie individualità ed autonomia. Né si indebolirono punti i rapporti esistenti tra la fisica e la chimica o tra queste discipline e la biologia, da che ciascuna affermò più recisamente l'indola propria, che anzi, conformemente a una legge fondamentale del progresso evolutivo, a misura che si disegnava più nitidamente la specializzazione dei confini di ciascuna fra queste arti, dell'antica filosofia naturale, mettevasi via più in evidenza i punti di contatto di ognuna di esse con tutte le altre. Non altrimenti è avvenuto nelle scienze sociali. Naturalmente ci sono anche nel corso di questa, della biblioteca dell'economista, cioè, quindi c'è la presa cioè il modello Germania serve come un riempitivo, no? Un qualcosa a cui richiamarsi per prendere contemporaneamente le distanze per fare qualcosa di nuovo. Anche se all'interno ci sono invece singoli punti in cui singoli autori, singole prospettive vengono invece vengono richiamate concretamente. Non so, per esempio, per Boccardo sempre è costante l'elogio di Schulz, Delitzsch, eccetera, insomma, o richiami concreti a singoli problemi tedeschi, no? Anche delle scelte politico-sociali tedesche, però all'interno di questa prospettiva di differenziazione interna. Quindi direi, per avviarmi alla conclusione, che dal punto di vista dei nostri liberali, nei confronti dell'itinerario delle scienze sociali, particolarmente per quel che riguarda l'economia, i liberali e le nuove scienze dello Stato e della società, i liberali italiani recepiscono con entusiasmo che cosa dalla Germania? La carica neutralizzatrice di cui sembrano sature le nuove scienze dello Stato e della società nella versione tedesca, per il loro rivolgersi direttamente all'esperienza, alla storia, senza aver paura di queste ultime, senza rifugiarsi nella sterile teoria. Ma da questo bagno nella storia, nell'esperienza, gli italiani pretendono di ricavare le sicure leggi della scienza che a loro volta potranno essere l'occasione per essere chiamate dall'arte a qualche compromesso pratico. Paradossalmente direi che siamo di fronte, anche in questa età così, siamo nell'età di transizione appunto fra il Ferrara da una parte, il liberismo, quello che viene visto come un messaggio di liberismo puro, a improvvisamente negli anni 90 si dice ancora il marginalismo, il liberismo, in politica economica, dei Pantaleoni, dei Viti, e Mazzola, eccetera, no? Ecco, anche in questa età di confusione, di ritorni, eccetera, però, io credo che all'interno di questi vari tentativi, che possono essere fallimentari, possono andare nelle più disparate direzioni, però sotto sotto c'è sempre questa pretesa, quello di trovare, attraverso confronti continui, per quello allora ha senso la recezione di tutti i più disparati messaggi delle scienze politico-sociali in area europea, no? Senza, si dice, un obiettivo critico. No, l'obiettivo critico c'era quello di confrontarsi con tutti i possibili modelli che potevano venire da altre parti, con una presunzione però, quella di vedere quali di questi o quali insieme di questi garantisse la scienza più pura possibile, no? Che però paradossalmente per tutti questi, esplicitamente lo dicono, è contemporaneamente pura in se stessa, però l'arma del compromesso politico, secondo me, perché è chiaro che a livello politico non può non esserci il compromesso. La scienza è strumento puro, sì. Però i tempi in cui ci si ritrova a vivere sempre non possono essere mai in sintonia con il messaggio più puro della scienza. E quindi devono venire a patti con la scienza deve venire a patti con questo. E allora, secondo me, c'è effettivamente, anche senza porre dei meccanici nessi di causa e effetti, cioè comunque c'è sicuramente questa strana cosa, no? Che se da una parte siamo in presenza di una politica appunto di tipo trasformistico, una politica che porta a quelle scelte fondamentali di politica economica oppure anche invece di scelte istituzionali orientate costantemente al compromesso, parallelamente dall'altra parte, sul piano della teoria, siamo di fronte a un tentativo che va nella stessa identica direzione, insomma. Cioè una scienza che affina i suoi parametri sempre di più, ma nello stesso tempo proclama la necessità di trovare una mediazione, di essere lo strumento per antonomasia della mediazione, perché altro non può essere. Questo mi interessava, anche per, credo, perché allora a questo punto probabilmente tante svolte non sono più tali in questa prospettiva. Cioè, quando si parla della svolta orlandiana, degli anni metà 80, se non erro, oppure, cioè, sono convinta che a livello di metodo interno della disciplina sicuramente significa qualcosa, come significa del resto il fatto che i Pantaleoni, De Viti, De Marco, Mazzola siano qualcosa di molto diverso da questo orientamento, questi orientamenti ibridi del socialismo della cattedra italiana precedente, però sicuramente credo che siano invece molto più vicine, cioè si possa parlare meno di svolta nella misura in cui è analoga l'esigenza di purificare in maniera sempre più approfondita possibile i propri strumenti di indagine, che ripeto ancora una volta, cioè In realtà, se gli stessi discorsi potrebbero essere letti sia a livello di teoria scientifica che di prassi politica. Non so, penso a tutti i dibattiti sulle le tariffe protezioniste dell'87, del 78 e dell'87. Tutti i dibattiti è sul fatto che queste sono solo espedienti transitori, che non è vero che venga meno il credo classico, che in fondo il liberismo sì, sarebbe auspicabile, ma si dice nella situazione contingente non resta che da fare questo e non è una vera e propria politica protezionista, dicono, no? Coloro che la fanno. Così come gli scienziati, da canto loro, dicono sì, la scienza ha questo messaggio, però è inevitabile, la scienza non può che diventare poi, infatti, la scienza da una parte, la scienza pure dall'altra, è applicazione di essa. Nella misura in cui diventa applicazione, diventa per forza strumento compromissorio. Grazie. Ci sono domande di chiarimento veloci, puntuali e precise? No. No, sì, capito. Non è che Boccardo, la data di quando Boccardo cita, che si richiama Gibbons, Barrai, eccetera. 76. 76. Mm.